parte del mio sangue che corre sulla bottiglia ancora piena. Parlando. E il silenzio cala sulla goccia calda del mio sangue che corre sulla bottiglia ancora piena. Illumina il pensiero.